Curo anche l'antologia, ho curato l'antologia, penso che siano tutti testi degni assolutamente di essere letti. Naturalmente, diciamo, i vincitori e i segnalati sono stati scelti secondo un criterio, sono stati scelti dalle giurie, per cui, come dire, c'è una classifica che fa parte del gioco del premio. Una cosa interessante è che quest'anno abbiamo per la prima volta un monologo teatrale che viene inserito come testo, come fosse, diciamo, un racconto all'interno dell'antologia. Ecco, il racconto breve, giallo, prima non aveva un grande mercato. Il premio La Mettrama ha contribuito a diffondere, a sensibilizzare nei confronti di questo genere? Ma questo non lo so, io penso che molto probabilmente, come dire, il tema del premio nello specifico è abbastanza interessante, suscita molto interesse perché l'idea di abbinare il noir con le lame, insomma, sembra allettante per autori e per lettori, quindi penso che probabilmente, come dire, è uno stimolo tanto alla lettura quanto alla scrittura. Tra l'altro, se non sbaglio, avete introdotto anche una sezione legata alla cucina. Sì, in realtà è nata una collaborazione con lo Slow Food di Maniago che assegna ogni anno un premio speciale, un racconto che, oltre ad avere le caratteristiche, diciamo, del premio normale, quindi il noir con le lame, contiene anche elementi enogastronomici, Un insomma, giallo in cucina, un giallo in diciamo. cucina, sì.